mattinierissimo come noi del resto, ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club, si torna in diretta con grande entusiasmo. Ho appena sentito la voce fuori onda di Alessio Di Modica, co-curatore di questo progetto che conosceremo a breve. Ma come? Hai detto subito dopo la pubblicità e dammi 2 minuti, ma neanche, dammi 30 secondi di far andare un po' di sigla della rubrica In Cena. Il tempo per darti il buongiorno, Alessio, benvenuto, bentornato, grazie per questa levataccia, ciao. Grazie a te William, buongiorno a tutti. Come stai? È da un po' che non ci sentiamo. Bene, qui sta arrivando la primavera finalmente. Sembra proprio quindi... così, dai, che sia un buon segno, perché di questi tempi non è poco, insomma. Hai capito? Beh, allora, un progetto di cui siamo a conoscenza anche noi di Radio Città Fujiko, anche nella lettura delle prime pagine, per la memoria che deve restare sempre e comunque ben presente e soprattutto nitida. Genova 2001, siamo arrivati al 2021. Oh, sono passati 20 anni, Alessio, ti rendi conto? Sì. Un pochettino, cioè, cos'è cambiato? Come siamo cambiati in questi 20 anni, Alessio? Ma intanto in questo quasi un anno di campagna, la cosa che ci siamo accorti ascoltando, parlando con le persone, che tutti quei temi di cui si parlava 20 anni fa purtroppo sono diventati emergenze. Quindi in un certo senso diciamo che su quei temi, sui flussi migratori, sulla sanità pubblica, già se ne parlava tanti anni fa, un movimento che come sappiamo è stato inascoltato e dopo Genova è stato anche massacrato. Certo, sono stati momenti veramente tremendi di macelleria, di repressione, di minacce, di botte a giovani, a pacifisti, a un popolo progressista che marciava pacificamente, fino a che l'introduzione di provocatori, le tensioni, è un momento che ha costato caro a tante persone. C'è stato anche Carlo Giuliani che abbiamo visto cadere nella manifestazione. Insomma, se ne è parlato tanto e poi, come ho detto, non deve essere assolutamente una realtà che ogni anno diventa sempre come una fotografia, no? Quando la lasci lì, ogni anno diventa sempre più sfumata, più sfocata. No, è importantissimo che resti nitido e come ben presente. Anche perché le emergenze, come hai detto tu giustamente, mi appoggio al tuo discorso e condivido, sono ancora presenti e come, e ci devono unire e non dividere. Allora, parliamo del progetto intanto. Quando è nato, da quanto tempo ci lavorate e di che si tratta? Sì, il progetto è nato qualche anno fa, quando ci siamo resi conto che era necessario parlare di Genova, proprio perché quello che dicevamo prima, che ci si poneva come temi, come argomenti, come lotte, abbiamo visto che negli anni sono diventati dei temi necessari, e quindi già qualche anno fa c'era la voglia di riprendere in mano, proprio per non far sbiadire il ricordo di Genova. Nell'aprile dello scorso anno, del 2020, decidiamo di partire con questa campagna crowdfunding, fra l'altro proprio nel momento in cui arrivavano i vari lockdown, il virus, avevamo pure pensato di rimandare il progetto, ma non ce la siamo sentiti proprio per una questione di memoria. Devo dire che in questo anno, da aprile del 2020 fino ad oggi, il progetto è andato molto bene nonostante i lockdown. Addirittura una cosa emozionante, quando hanno saputo di questa campagna ci hanno scritto le mamme di Plaza de Mayo, ci hanno mandato un messaggio di sostegno al progetto, si può trovare sui siti della campagna. Ora siamo a meno un mese, ci mancano esattamente 29 giorni alla fine del progetto e siamo vicinissimi all'obiettivo, e quindi c'è ancora tempo per sostenerlo. Lo spettacolo che volevamo riprendere, che è il nostro vecchio spettacolo di repertorio del 2002, ormai è pronto. Dovevamo cominciare a girare già a giugno dell'anno scorso, ma per le situazioni che sappiamo non è stato possibile, e quindi sembrava lontano quando abbiamo cominciato ad aprile il ventennale. Nel 2020 siamo partiti anche in una grande solitudine rispetto al tema. Fortunatamente oggi, con l'avvicinarsi di luglio 2021, invece c'è altro che si sta muovendo, e in questi mesi, non potendo fare gli eventi dal vivo per promuoverlo, abbiamo fatto il Partigiani della Memoria Tour, che era previsto dal vivo, ma invece abbiamo fatto delle dirette online con persone con cui abbiamo ricostruito la memoria di quei giorni, ma anche del movimento che in quegli anni si muoveva intorno a Genova. Certo, e stiamo parlando di una narrazione che nella rubrica In Scena è legata al teatro, ma non solo, è anche immagini, in questo caso purtroppo dall'algido schermo, come lo definisco io, da remoto, ma che quanto mai è stato in continuità, visto l'importanza dell'idea e del percorso, sostenuto nonostante le gravi limitazioni pandemiche. Allora, abbiamo detto è una narrazione teatrale, mi permetto di dire questo, è una scrittura, possiamo entrare un pochettino nel racconto? Sì, per la precisione è un cunto, appunto, perché io mi occupo da 20 anni proprio del cunto siciliano, e in quanto ricercatore rispetto anche alla tecnica, non soltanto di storie, perché certo, il mio lavoro nasce dalla ricerca delle storie, che prendo le storie che sono state nascoste, sepolte e le riporto a galla. E oltre a questo c'è una ricerca legata al ritmo, al suono della parola, quindi il lavoro che stiamo facendo è quello di costruire, cioè, una ballata metropolitana che possa parlare alle diverse generazioni, quindi alle generazioni di quarantenni, di cinquantenni come noi e i ragazzi anche più giovani. Allora avevamo 30 anni? Io parlo del mio caso. E da 30 a 50 qualcosina cambia nella vita. Per cui ci sono degli episodi che restano sempre comunque. E visto che adesso la storia, secondo me, la raccontano a modo loro, la raccontano in maniera un po' così, hai capito? Questi episodi dalle Torri Gemelle a Genova 2001, poi arriviamo alla pandemia, la grande crisi economica. Le sto dicendo un po' a random, cronologicamente parlando. Però in questi 20 anni è successo di tutto, Alessio. Eh sì, infatti per questo il lavoro della narrazione, il lavoro della narrazione fatto in maniera libera e indipendente è molto importante in questo momento più di altri momenti, perché si cerca appunto innanzitutto di creare quella narrazione che possa affondare veramente i denti, le unghie nella carne, nel noccio della questione, quando poi oggi si sa che molti fatti vengono narrati partendo da un punto di vista anche manipolatorio. E invece la narrazione che parte dall'ascolto, infatti noi abbiamo ascoltato tanto, pur essendo Genova, però abbiamo voluto ascoltare tanti testimoni per raccontare questa storia. E il partigiano della memoria tour è servito anche a questo, ad ascoltare persone che avevano qualcosa da dirci rispetto a Genova. E quanto sono cambiate anche le nostre vite dal punto di vista personale, in un periodo che ci accompagna dai 30 ai 50 anni, poi comunque in maniera eterogenea a tutte le fasce di età. Come sono cambiati i giovani, com'è cambiata l'informatizzazione, com'è cambiata l'informazione, com'è cambiato il mondo di fruire della cultura e allo stesso tempo anche del commercio, dell'acquisto, della distribuzione. Tutte queste realtà, non ti sembra anche a te, scendo un attimo sul dialogo libero nonostante questa importante intervista, non ti sembra anche a te che tutte queste cose a volte non ce ne accorgiamo neanche, eppure sono importanti, no? Quelle che ho citato dal punto di vista della nostra quotidianità, tantissime sono cambiate più cose dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, piuttosto che dalla fine del 700 fino a metà 1900, perché con la velocità della comunicazione, con il cambiamento della diffusione culturale, col cambiamento del commercio, la globalizzazione, è stato un inizio e termine, un ponte tra il 900 e il 2000 che chissà come lo racconteranno i libri di storia. Ogni tanto me lo chiedo. Perché c'è da dire che è cambiato anche il rapporto col dissenso, perché prima c'era molta più libertà di dissenso, nonostante i tempi e i periodi bui che abbiamo vissuto. In questi ultimi 20 anni invece è proprio l'idea del dissenso, della critica sociale, che è fondamentale per l'evoluzione di una società, è diventato molto più, vengono più facilmente criminalizzate, marginate o attaccate. Sì, in proporzione questo cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, tra i due segmenti di tempo che ho citato, è veramente quante cose sono cambiate nel secondo periodo che ho portato a confronto con quello più lungo che ho detto in precedenza. Nella tecnologia sono cambiate tantissime cose, eh? Non ci sono più, quando parliamo, non so, del quanto è rimasto del 1950 a livello di tecnologia? Nulla è rimasto. È tutto. Però Sì, dimmi, scusa, ti ascolto. Sì, sì, due cose, c'è da dire che se da un lato la nuova tecnologia in termini di comunicazione ci porta un eterno presente, e lì è importante lavorare sulla narrazione, perché la narrazione permette di mettere i fatti in rapporto di conseguenza causa-effetto, no? Dall'altra parte è anche vero che Genova è stata la prima manifestazione che è stata registrata, filmata e documentata, e che quella ha salvato molte persone da accuse. C'è due fra tutti, poi magari se c'è tempo dopo al volo ne parliamo, Marco Covel e Lorenzo Guadagnucci, che domani avremo ospiti in una diretta, che sono stati salvati, soprattutto Covel, dal fatto che tutto quello che è avvenuto è stato ripreso. E quindi, come lui e tante altre persone, quella è stata la prima manifestazione in cui la nuova tecnologia, usata bene, ha portato degli effetti positivi. E importanti, questo è fondamentale. Allora, dal 2001 quattro ragazzi partono dalla Sicilia, da uno dei territori più industrializzati d'Europa. La lotta all'inquinamento, respirare veleno ogni giorno, la devastazione del territorio li spinge sin da giovanissimi all'impegno, alla coscienza civile. Partono per unirsi a centinaia di migliaia di persone a Genova, ognuno con la sua lotta nel proprio territorio, e tutti insieme a manifestare pacificamente contro gli otto potenti del mondo. La città sembrava in preda a un'occupazione militare. Da allora il termine zona rossa cominciò a diventare. In quei giorni si infranse il sogno di una generazione che stava lavorando concretamente per costruire un mondo a misura di essere umano, e lì su quelle strade qualcuno perse pure la vita. Stacco musicale, torniamo tra pochissimo, perché vogliamo conoscere, anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori, come darvi una mano concretamente. Poi mi parlavi di altri appuntamenti video, intanto che ci prepariamo a questo traguardo che vorremmo tagliare insieme. Un po' di musica, Alessio, ci sentiamo tra 2-3 minuti, ok? Sì, grazie. Grazie a te, a tra poco. Con noi Alessio Di Modica. Di Modica, cioè nel senso dalla cittadina del cioccolato. No, dal cognome. Ah, dal cognome, ok. No. Di Augusta, sei andato di Augusta. Okay. Non come Leonardo da Vinci, non so. No. Okay. Però ti ho fatto un grande complimento, Sì, sicuramente le origini saranno da lì, quindi. Certo. Quindi siciliano. Sì. Perfetto, si sente anche dalla cadenza, per cui tutto questo è molto eterogeneo nel territorio, un'attenzione al territorio, un'attenzione ai percorsi. Il progetto ha un nome specifico, ce lo puoi dire? Sì, il progetto è 20 anni per non dimenticare il G8 di Genova. E noi siamo una compagnia indipendente, l'abbiamo voluto fare per arrivare al ventennale con un percorso condiviso dal basso, perché diciamo prima il ventennale è una tappa importante, ci deve portare, speriamo e lavoriamo per poter portare in giro questo spettacolo in giro per i prossimi 20-30 anni, perché sì, le nuove generazioni devono sapere. L'obiettivo è quello, assolutamente, per mantenere la fotografia più che mai nitida e concreta. Allora, sperando che vi siano state anche dei cambiamenti in meglio, certamente questo indubbiamente è un percorso, è una costruzione, è una importante nella cultura, nella letteratura, nel teatro e nella musica. Questo è fondamentale. Detto ciò, hai parlato prima di un incontro video con tante storie da cui tu hai estratto, o voi avete estratto, un particolare incontro con due nomi che hai citato in precedenza. Ci puoi dire qualcosa di più, sia sui tempi che sui contenuti? Sì, il partigiano della memoria, come dicevo prima, doveva essere dal vivo per promuovere il progetto, però con la possibilità di non poter fare gli eventi dal vivo, allora siamo riusciti ad unire nelle dirette online persone da diverse parti d'Italia, e questo è stato molto importante per poter raccontare quegli anni e quello che è accaduto a Genova. Domani avremo l'11° appuntamento con il partigiano della memoria, oggi è venerdì, sì. Domani alle 18 si potrà seguire sulla nostra pagina Facebook, che è Progetto 20 anni, la diretta con Mark Covel e Lorenzo Guadagnucci, due giornalisti che stavano alla Diaz. Anzi, Mark Covel non stava proprio dentro la Diaz, stava fuori, è arrivato nel momento in cui stavano arrivando le cariche, è stato chiuso dai poliziotti ed è stato scambiato per un pallone da calcio, anche la sua vita è stata messa a rischio per quello che ha subito. E Lorenzo Guadagnucci, che invece dormiva dentro la Diaz ed è stato picchiato, arrestato, e sono due persone anche che negli anni, tra il Comitato Verità e Giustizia per Genova e tutto quello che hanno fatto in termini di impegno, non hanno mai calato la guardia, non hanno mai abbassato la guardia rispetto a quei fatti. Domani racconteremo le loro storie, intanto il mediattivismo, come diciamo prima, che è stato importante a Genova, la prima grande manifestazione che ha avuto così presente il mediattivismo, e poi racconteremo anche la loro esperienza personale legata alle violenze della Diaz, perché ancora in questi 11 mesi non avevamo parlato della Diaz, ce la siamo conservata, diciamo, per il finale. Certo, sì, tra l'altro quel periodo è stato importante di percorso e di transizione, io faccio un ponte con un altro passato, dove i percorsi della chiamata sinistra, non ne parliamo poi a quello che sono arrivati nell'attualità e nel contemporaneo, perché lo stiamo leggendo, vivendo, sentendo quotidianamente, no? Ma una gravissima crisi già dava segnali da allora, e questo motivo di ripartenza, tutto ciò che illumina spaventa, io dico sempre, questo, c'era uno che illuminava ben più di noi, l'ha messo in croce, pensa, mo, per cui voglio dire, e quindi adesso non voglio fare dei paragoni altosonanti, ci mancherebbe, neanche blasfemi, però quello nel 2000 è stato veramente un motivo di aggregazione per le forze progressiste, se non vogliamo definire sinistra tra virgolette, e tutto ciò poteva essere veramente un grilletto, un innesco, un trigger, come si dice adesso, per qualcosa di concreto, a dispetto della dissolvenza sempre più precisa che stiamo vivendo tristemente ai giorni nostri. Hanno visto bene di sopprimerla, calci, botte, minacce, torture, chi più ne ha purtroppo cruentemente ne ha messa. La storia, il percorso, spettacolo, 20 anni, 2001-2021, cronache di inizio millennio dal G8 di Genova, per aiutarvi o aiutarci, visto che Radio Città Fujiko c'è, concretamente, come si può fare, Alessio? Sì, allora, sulla pagina di Produzione del Basso, 20 anni per non dimenticare il G8 di Genova. Dicevo prima che siamo vicinissimi all'obiettivo e serve uno sforzo finale per arrivare a raggiungerlo, perché sarebbe veramente bellissimo riuscire a realizzare tutto il progetto nell'interezza come l'abbiamo pensato e lo stiamo portando avanti in questi mesi. Per agganciare alla luce, al movimento, alle diversità che dialogavano in quegli anni, a me viene in mente una frase di Pasolini: ti insegneranno a non splendere e tu invece splendi. Certo, parlavo prima, no, di chi illumina, a tale proposito ti sei collegato perfettamente con un altro grande nome nel mondo della cultura e di tutto ciò che è una visione alternativa e progressista della società. Non sono pratico, anzi io sono veramente di un'ignoranza sisifea per tutto ciò che è informatizzazione, un vero dinosauro, non solo per l'età e per le dimensioni, ma si tratta di un crowdfunding. Sì, è la campagna crowdfunding, andando nella campagna, sulla pagina di Produzioni del Basso, poi si possono scegliere da qui a 29 giorni gli ultimi, diciamo, i premi, che sono da diversi tipi, vanno dai 10 ai 1000 euro, quindi avete ampia, per tutti i portafogli, per tutte le sì. Tra l'altro in quest'ultimo periodo stanno andando molto in voga la cassetta di limoni, giustamente un concetto di Genova, noi diamo come premio una cassetta di limoni bio siciliani. È buonissimo. L'ultimo periodo sta andando molto, molto bene. Sai che limoncino che salta fuori dalla scorza. Hai capito? Sì, per cui ci sono diverse possibilità, che va dal segnalibro al diario, alle anteprime assolute. Insomma, conoscerete tutto nel dettaglio se farete visita alle indicazioni online che vi sta dando Alessio. Purtroppo. Sì, per le strutture c'è la possibilità anche di coprodurre o produrre lo spettacolo per le strutture. Certo, dopo poi ovviamente una volta arrivati al traguardo, certo le strutture daranno la possibilità per farlo girare su tutto il territorio e perché no anche oltre confine. Sì. Si stava parlando della Spagna, di Barcellona, prima che arrivassi il lockdown, poi diciamo che un po' tutto questo ha scombussolato i piani, sappiamo, per cui speriamo di riprendere presto la normalità anche nel nostro mondo, che forse tra i più toccati. Ci puoi parlare un po' della tua compagnia indipendente, anche di te, sì, visto che sì, è Area Teatro, compagnia sì, teatrale indipendente, che ha scelto di essere libera da tendenze, mode, cliché e stereotipi, cercando un linguaggio che possa parlare a persone per trasformare quelli che oggi vengono visti come spettatori passivi, che non siano consumatori da sfruttare o da erudire, ma ascoltatori, portatori di vissuti, di emozioni, al fine di creare l'immaginario collettivo, perché le storie non raccontano la realtà, ma la forgiano. Ecco, questa è un'altra frase molto bella che viene riportata in presentazione. Area Teatro. Sì, intanto partiamo proprio dal punto di vista della scelta del linguaggio, che è quello del cunto siciliano, in un momento, quando dico un momento dico negli ultimi 15-20 anni, in cui la lingua siciliana si è fatta più cliché, più luogo comune che in altri momenti, bravo, storici forse, e il teatro soffre molto di questa cosa del luogo comune, del cliché, del folklore, purtroppo lo dico, il folklore nel senso dispregiativo, quando invece la lingua è una cosa viva che non va assolutamente cristallizzato, individuato come il luogo comune, spesso anche bravo, quello fatto dalle fiction televisive, purtroppo. Da tutto, dalla moda, ma capita anche sì, a Bologna, sì, sai, il nostro dialetto che è bellissimo, come è bello quello siciliano, è completamente travisato da slang, e quando alcuni non bolognesi arrivano a Bologna per scherzare, accennano a certi termini in maniera così di slang e dicono questo è per Bologna, è un dialetto. No, queste sono parole che sono state storpiate, dette così in maniera modaiola e completamente travisata. Poi va bene tutto, ci mancherebbe, questi sono particolari, ma non troppo. Sai perché? Perché se noi questi aspetti li demonizziamo, come quello del dialetto, della tradizione, se li prendono gli altri e li usano male, perché li usano per racchiudere in no, il mio è più bello del tuo, no, mettiamo sotto il nome della città in italiano il nome in dialetto, per farvi capire dove siete adesso veramente, cioè in maniera divisiva, mentre invece la tradizione e la cultura deve essere studiata per essere diffusa e inclusiva e intersecata, e per intersecarla bisogna conoscerla, non allontanarla, questo secondo me è fondamentale. Scusa, il teatro è un po' vittima di questa cosa, il teatro è proprio vittima del cliché, del luogo comune, di tutti questi meccanismi che abbiamo detto. Quindi il fatto di poter portare un siciliano che sia universale, che poi alla fine il cunto si basa sul ritmo, ma il ritmo, se si vede le tecniche di narrazione giapponese o il griot africano, fondamentalmente dentro è universale, e quindi utilizzare il siciliano come lingua universale, non come lingua di appartenenza in senso stretto, che ci porta a dei regionalismi inquietanti. Faccio lo stesso discorso ovviamente con altri idiomi, altri modi, altri percorsi, perché non sono siciliano. ma vale per tutti. Vale per tutti, è quello che voglio far capire, voglio trasmettere, insomma. Beh, è bello, interessante questo modo e di. E poi con la nostra compagnia, una cosa importante, che abbiamo fatto delle scelte etiche, da sempre, a differenza di molti, non partecipiamo a rassegne, teatri, festival che hanno tra i finanziatori multinazionali, in particolar modo quelle del petrolio, visto che noi viviamo nel polo petrolchimico più grande d'Europa, ma non solo per questo, perché ci sono multinazionali che poi da qui vanno comunque a devastare l'Africa, l'Est Europa, certe parti dell'Asia, e quindi la nostra abbiamo fatto anche una scelta etica nei confronti di certi sponsor e certi finanziatori. Sì, scusa un attimo, ci scrivono al 333-180-9494. Buongiorno Maria, buon venerdì, chiede Maria, puoi ripetere il nome della pagina Facebook per favore? A te Alessio. Sì, la pagina Facebook è 20 anni. 20 anni, semplicemente. Sì, sì, semplicemente 20 anni. Certo, sì. 20 anni c'è una di quelle foto ingiallite mie a Genova, purtroppo ingiallite la foto. La foto ingiallita. 20 anni numero o scritto come? 20 anni, 20 numero anni. Ok, ok. Sì. Poi c'è anche la pagina Facebook di Area Teatro, e sì, anche su Twitter sempre Area Teatro. Poi come sulla pagina di produzione del basso, dove c'è la campagna, 20 anni per non dimenticare il G8 di Genova, 20 scritto sempre al numero. Ok, noi ti aspettiamo anche a Bologna, ovviamente. Eh sì, speriamo di venirci presto.